bisogna un attimo chiarire che l'accordo era con l'UNHCR, ma diciamo l'idea di ricollocare poi i rifugiati nei paesi occidentali era soltanto diciamo una proposta, quindi non era diciamo nulla di sicuro, nulla di concreto, tanto che dalla stampa israeliana è trapelata anche la possibilità di coinvolgere la Svezia, altri paesi del nord Europa, ma non c'era nulla di concreto. Diciamo la marcia indietro del premier Netanyahu si inquadra un po' in una sorta di difficoltà che sta attraversando dal punto di vista politico. In Israele il tema dei rifugiati è un tema molto delicato, perché per forza di cose mette un po' in contrasto varie anime del governo, che sappiamo essere quella della coalizione di destra, che vede anche molti partiti di destra estrema, con la componente diciamo più di centro e quella musulmana. La stampa israeliana ha attribuito la marcia indietro di Netanyahu alle dichiarazioni del ministro dell'istruzione Naftali Bennett, che ha bocciato assolutamente l'accordo con l'UNHCR, dicendo che era una vergogna, perché avrebbe trasformato Israele nel paradiso degli infiltrati. Tra l'altro è interessante vedere che la politica utilizza questo termine per i rifugiati che sono entrati illegalmente in Israele, li chiama infiltrati. Perché questa marcia indietro? Perché Netanyahu ha bisogno dell'appoggio di Bennett. Bennett è il capo del Jewish Home, che è uno dei partiti di coalizione. È un partito di destra, la stampa lo definisce populista, ultranazionalista, perché porta avanti questa idea della componente diciamo esclusivamente composta da israeliani o comunque da ebrei all'interno dello Stato di Israele. Quindi un accordo di questo tipo non sarebbe mai potuto piacere a Bennett, perché era un compromesso, cioè Netanyahu si era accordato con l'UNHCR per ricollocare all'estero 16.000 rifugiati, comunque migranti, mentre ad altri 16.000 avrebbe concesso uno status di protezione temporanea per 5 anni, quindi sarebbero rimasti in Israele. Una possibilità del genere non poteva assolutamente piacere a Bennett, e da qui ecco forse la decisione di fare marcia indietro, perché se Bennett toglierà l'appoggio a Netanyahu, il governo per forza di cose collasserà. Il lessico in questa vicenda è molto importante. Tu hai citato prima questa parola infiltrati, e hai accennato anche alla questione di una frase che viene attribuita, se non sbaglio, allo stesso Netanyahu, del carattere ebraico dello Stato, quindi subisce un po', come dire, chiamiamoli, ricatti della componente più a destra nel suo governo? Sì, diciamo che Netanyahu non è moderato, non è sicuramente un moderato, quindi lui utilizza questo lessico perché comunque in qualche modo gli è proprio, però sicuramente sì, subisce chiaramente le pressioni degli altri 3 o 4 partiti della coalizione di destra. Tra l'altro leggevo sulla stampa in queste ultime settimane che la prospettiva diciamo di andare alle elezioni in maniera anticipata non è così lontano, dal momento che comunque ricordiamo che Netanyahu in questo momento sta affrontando diversi problemi con la giustizia, e questo gli sta sicuramente togliendo consensi e sta anche indebolendo la sua posizione all'interno del governo. Lui ha bisogno di tenere salda la sua coalizione e di fare in un certo senso contenti tutti. D'altro canto il più grande successo di questi anni di Netanyahu al governo è stato quello di aver in qualche modo portato gli israeliani a riparlare di politica. Cioè, se per tanto tempo il discorso è sempre stato un po' polarizzato su chi chiedeva appunto una componente quasi puramente israeliana all'interno dello Stato e chi invece riconosceva diciamo di concedere più o meno diritti anche ad altre minoranze, pensiamo per esempio alla questione palestinese, adesso ci sono più aree grigie, quindi si sta creando effettivamente un dibattito abbastanza animato, e quindi è anche difficile per lui riuscire, no, a trovare una quadra e a mantenere una coalizione che invece porta avanti un messaggio così fermo, così duro.